Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? C'ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che chiude la sua trilogia su Alberto Manzi in occasione del centenario della sua nascita con una terza voce che illustra l'opera del bravo maestro. Nelle puntate scorse abbiamo ascoltato la storia di Manzi secondo la testimonianza di Roberto Farnè, che l'ha conosciuto e l'ha anche intervistato. Abbiamo inquadrato anche storicamente il tempo in cui Manzi ha agito e ha rivoluzionato certi canoni dell'istruzione, e in questa volta invece, in questa puntata, guardiamo, investighiamo il Manzi su un versante magari meno conosciuto ma non meno importante, e che testimonia anche la politricità di Alberto Manzi. Parliamo dunque del Manzi letterato secondo la ricerca di Patrizia D'Antonio, che tra l'altro ha pubblicato recentemente questo volume Ogni altro sono io, Alberto Manzi, maestro e scrittore umanista, con tanto di privazione di Cristoforo Malischi, edito Castelvecchi, e che appunto intreccia il tema della letteratura e anche dell'istruzione in un'unica visione di emancipazione, ovviamente sempre dalla parte dei più deboli. Quindi, dopo uno stacchetto musicale, andiamo a risentire questo intervento di Patrizia D'Antonio, registrato nell'iniziativa che il CRAP ha organizzato presso la Casa dei Pensieri all'inizio di settembre. Buon ascolto. Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Ci faccia sapere il nome di ognuno. La nonnetta qui è... Barboni Agata, ha 82 anni. E mia nonna questa. 82 anni? Sì. E la signora? Virginia Sganna. Quanti anni? 78. 78 anni. Remondini Gustavo. E il signore che... torna ogni giorno con il mulo, con l'asinello, per arrivare presto presto alla lezione e non perdere, non fare mai tardi, è vero? E la signora? Ferragudi Armida. Di quanti anni, signora? 57. È lei che ha scritto al figliuolo a Gorizia, se non mi sbaglio. Per la prima volta è riuscita a mandare la cartolina, è stata contenta. Suo figlio cosa ha detto, signora? È stato contento di vedere finalmente una cartolina, ricevere una cartolina scritta tutta dalla mamma, eh? Io nelle vostre lettere ho trovato una parola che non è scritta bene. Lo so, io non ve l'avevo mai spiegato, è giusto, ma oggi approfitto di questa occasione per farvi notare come va scritta questa parola. Allora, un momentino, vi faccio prima un disegno. C'è un signore che legge il giornale, c'è un fiore, c'è un albero e c'è un bel sole. Brutto come disegno, ma c'è un bel sole. Come diciamo questo suono? Noi diciamo c'è. Cosa significa questa parola c'è? Significa ci sta, ci è. Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Io vi parlerò appunto dei modelli educativi dell'Italia repubblicana, citando, perché è l'emblema, l'esempio più importante a mio avviso, il grande maestro Alberto Manzi, maestro degli italiani, ricordato così per la trasmissione Non è mai troppo tardi, che alfabetizzò più di 1,5 milioni di italiani e andò in onda per una decina d'anni negli anni 60. Manzi fu un maestro, alfabetizzatore, divulgatore, formatore, una figura chiave in quella che è stato il rinnovamento pedagogico di quell'epoca, che inizia sicuramente a svilupparsi dopo, appunto nel dopoguerra, ma che avrà poi il suo apice negli anni 60 e 70, se già pensiamo con la legge della scuola media unica e poi a quel fermento di esperienze che furono, che andarono dalla scuola di Babiana di Don Milani nel 67, all'esperienza di Mario Lodi con C'è speranza se questo accade a voi, passando per l'esperienza di un'alma appietrolata di Albino Bernardini nel 68, oppure l'MCE con Bruno Ciari, sono anni di grande attivismo, di esperienze didattiche che cercano di trovare nuove forme appunto di scuola più centrate sull'alunno piuttosto che sul maestro, con la famosa tradizione della lezione frontale di Gentiliana memoria, in cui il maestro concretizzava la trasmissione del sapere, che era poi appunto lo spirito, no? Nell'ottica della filosofia idealistica, e che quindi era un po', era un modello duro a morire. E quindi, per contestualizzare sinteticamente, possiamo ricordare che l'Italia, uscita dalla guerra, veste un modello, appunto questo modello ancora gentiliano, che costituiva la struttura scolastica, pensiamo appunto alla riforma Gentile, e permeava la cultura pedagogica, che era un modello usato sapientemente dal regime fascista, che aveva ben compreso il ruolo centrale dell'educazione nella costituzione di un nuovo ordine politico e sociale. Ci si trova quindi nel dopoguerra di fronte a due scuole di pensiero, sostanzialmente quello cristiano e quello laico comunista socialista, che hanno in realtà anche con diverse forme, hanno in comune, neanche tanto paradossalmente, di ispirazione umanistica. Quindi si trovano in realtà entrambe a dover rispondere a una situazione disastrosa in cui versa la scuola del dopoguerra: l'abbandono scolastico, la mancanza di edifici, ma anche di insegnanti qualificati, dover raggiungere le zone rurali. Quindi si trattava di ricostruire gli edifici, ma anche di riformulare una cultura pedagogica adeguata ai nuovi bisogni e superare questa dicotomia tra istruzione e educazione. Sappiamo infatti che il rinnovamento dal dopoguerra in poi andrà in senso quantitativo verso l'istruzione di massa e in forma democratica, ma anche appunto qualitativo, perché questi cambiamenti, questi nuovi assetti appunto porranno delle istanze di tipo democratico e quindi delle problematiche pedagogiche e culturali. La grande sfida infatti di questo rinnovamento passa per la risoluzione della piaga dell'analfabetismo e per con la certificazione dei livelli di base, di istruzione di base, la famosa licenza elementare, ma passa anche per l'educazione, quindi non solo l'istruzione ma anche l'educazione, perché si deve rifare l'Italia ma anche rifare gli italiani. Il problema è dunque duplice: si tratta di istruire, superare il grave problema dell'analfabetismo, attirare le masse popolari, ma si tratta anche di formare, di educare i nuovi futuri cittadini alla cultura della pace e della democrazia in una convivenza civile. Bisogna scolarizzare le classi popolari, raggiungere appunto le zone rurali più arretrate, riqualificare l'insegnamento. E dunque in questo contesto di necessità di rinnovamento che Manzi, Alberto Manzi, porta avanti le sue sperimentazioni didattiche e forma il suo pensiero pedagogico, a partire da valori che aveva consolidati dall'esperienza della guerra, che lo marca evidentemente, da un impegno civico che prende appunto forma in una missione pedagogica che porterà avanti per tutta la vita. Tornato giovanissimo dalla guerra, tra l'altro con un diploma d'onore per aver combattuto nel gruppo Folgore durante la guerra di liberazione contro la Germania, così era scritto, ottiene nel 1946 il suo primo incarico presso il carcere minorile Aristide Gabelli di Roma. Missione difficilissima, si trova con un gruppo di ragazzi, di 94 ragazzi tra i 9 e i 17 anni, in un locale, non c'erano aule, non c'era possibilità di portare matite, carta, e con un regolamento era rigidissimo, e quindi già in questa prima esperienza, in cui lui riesce poi in modo straordinario, emerge già quell'attitudine che porterà avanti in tutta la sua carriera, quella che oggi con la terminologia pedagogica attuale chiameremo la ricercazione, ovvero la riflessione che scaturisce dall'esperienza diretta, pratica, in un continuum appunto di teoria e pratica. Il rinnovamento di quegli anni riguardava anche però la letteratura per l'infanzia, e in questo Manzi appunto inizia la sua carriera proprio con l'esperienza del carcere, scrivendo Grog, storia di un castoro, che fu tradotto poi in 28 lingue, vinse il premio Collodi, è stato indetto dal Movimento di Collaborazione Civica, e qui appunto inizia la sua carriera di scrittore, che affiancherà tutta la vita insieme a quella appunto di insegnante e formatore. Il successivo romanzo Zoe, vincitore del premio internazionale Andersen, è quello poi più forse famoso, essendo stato anche ridotto a sceneggiato televisivo negli anni successivi, è stato tradotto in 32 lingue. E in quegli anni inizia poi Manzi anche la collaborazione con il settimanale curato da Domenico Volpi, Il Vittorioso, il settimanale per ragazzi. Lui, Manzi, cura la rubrica di divulgazione scientifica Occhi sul Mondo. Collabora inoltre nel 1953 come assistente presso la Scuola Sperimentale del Magistero di Roma, a fianco del grande pedagogista famoso Luigi Volpicelli, famoso perché aveva studiato a fondo, peraltro, il sistema scolastico sovietico, e aveva fatto conoscere anche la pedagogia russa, Vygotsky, che aveva marcato molto con la sua opera sulla formazione dei concetti, lo stesso Manzi. Manzi lascia però questo incarico, questo nella scuola sperimentale, appunto perché privilegia l'esperienza concreta dell'insegnamento. La finalità dell'educazione per Manzi è chiara ed è ciò che lo rende straordinariamente attuale. Si tratta di educare a pensare. Egli opera per preparare ragazzi a diventare futuri cittadini del mondo. Sostiene che le nuove generazioni si troveranno di fronte a un mondo che non sappiamo neanche immaginare, e ne sappiamo immaginare i cambiamenti che si realizzeranno, né per le conoscenze che saranno necessarie, che saranno richieste. Quindi l'obiettivo che ci si deve porre nell'insegnamento è soprattutto sviluppare il senso critico, ovvero saper pensare autonomamente. Naturalmente questa idea si fonda su valori radicati in lui, che nascono sì nel dopoguerra, ma che sono tuttora attuali. Sono basati sulla necessità di creare dei cittadini liberi, che sappiano convivere civilmente, in pace e democraticamente, in un contesto sociale di superamento dei conflitti. E ciò si traduce per Manzi in una didattica originale, basata sulla problematizzazione. Il maestro è visto come colui che deve predisporre il contesto di apprendimento, i tempi, i materiali, soprattutto gli stimoli, e che opera per mettere in crisi i concetti spontanei che i bambini formano, si sa, già precocemente, come risposta alle loro domande spontanee su come funziona il mondo o il linguaggio. Bisogna quindi per Manzi creare quella tensione cognitiva capace di stimolare la costruzione di nuovi concetti attraverso la discussione di gruppo. Dunque l'interazione con i compagni, non solo con il maestro, è essenziale, fino a creare poi una successiva messa in crisi, la creazione di una nuova tensione cognitiva verso un sapere che non ha mai fine, proprio perché la conoscenza è una ricerca continua, come diceva già Socrate. Ora, questi elementi che abbiamo brevemente citato, la problematizzazione, la creatività, la socialità, sono ancora estremamente attuali. Se pensiamo infatti alle strategie di Lisbona in materia di educazione e istruzione in Europa, che raccomandano lo sviluppo di competenze quale imparare ad imparare, o le competenze sociali e civiche, e che recepiscono gli elementi chiavi della pedagogia contemporanea, che sono la creativity, cooperative learning, il problem solving, sono esattamente quello che abbiamo detto, che diceva Manzi 60 anni fa, per affrontare la sfida della formazione dei futuri cittadini europei, oggi ci possiamo riferire appunto a quelle stesse idee espresse già, neanche capite e comunque disattese, diversi decenni fa appunto da Manzi. Ancora oggi ci poniamo le stesse problematiche, anche se in contesti diversi, di ampiezza diversa. Parliamo di analfabetismo di ritorno, ci chiediamo come sviluppare il senso critico e il discernimento nei ragazzi, nei giovani, nel riconoscere le informazioni vere da quelle false nella tempesta comunicativa della rete. L'uso massiccio dei social network impone ai giovani l'acquisizione di chiavi di lettura per riconoscere e orientarsi in questa massa di informazioni che vanno oltre la dimensione del tempo e dello spazio. Dunque, l'istanza anche dell'educazione alla pace, alla tolleranza, in un'ottica multiculturale, è un altro elemento che è più che mai attuale e in questo mondo che sembra avviato verso conflitti ingovernabili. Rimaniamo ancora prima dell'estate, ancora con l'intervista di William Piana, perché c'è stato un importante avvenimento a Bologna che ha messo in evidenza il disegno. Disegno che è una sorta di filo continuato universale che percorre i tempi e gli spazi, e quest'anno, con questa biennale del disegno, tenutasi per l'appunto a Bologna, ha avuto come oggetto il viaggio, a partire dal Grand Tour che ha reso celebre l'Italia nel 700-800. E allora abbiamo sentito con William Piana la spiegazione del perché di questa mostra con Massimo Pulini, art director dell'avvenimento. La quarta rassegna, e siamo al decimo anno, è di una vasta proposta legata al tema del disegno, che a Rimini si è sviluppata grazie ad un gruppo di studiosi e di appassionati della materia, sia in campo antico, diciamo così, tra virgolette, che contemporaneo. Gli specialisti del fumetto, dell'architettura, del disegno di paesaggio e di varia natura, e da 10 anni a questa parte abbiamo messo insieme una manifestazione che peraltro mancava all'interno del mondo già notevolmente stipato delle esposizioni d'arte, però una cosa specifica sul mondo del disegno mancava, e quest'anno noi nella quarta edizione abbiamo proposto 12 mostre intorno al tema del viaggio, con un sottotitolo che ha dal Grand Tour alla fantascienza, tanto per dare anche un po' in maniera plastica gli estremi cronologici di questa rassegna. Per quanto riguarda i protagonisti, a chi è rivolto? Questa rassegna espone qualcosa come 1000 disegni, declinati in tematiche e argomenti che partono da metà Settecento, da quello che fu il mitico Grand Tour che investì l'Italia e dove le generazioni di giovani dell'aristocrazia del nord Europa avevano come modello quello di venire in Italia a passare un periodo di immersione nella storia e nell'arte. Quindi lì i protagonisti sono alcuni artisti del Settecento di straordinaria levatura, che vanno da dei disegnatori acquarellisti come Cosens, Johann Robert Cosens, a nostro Felice Gianni, ma poi le mostre che vengono proposte toccano argomenti legati anche all'Ottocento, al Novecento, c'è una collezione intera di disegni del Novecento europeo incorniciati all'antica, quindi una specie di doppia collezione che si innesta insieme, fino al cantiere disegno che propone artisti contemporanei, altra invece che viene dall'Accademia Reale di San Fernando, di Belle Arti di San Fernando di Madrid. In questo caso particolare viene una selezione da un fondo di straordinaria importanza proprio legata al tema del Grand Tour, perché sul finire del Settecento una nave piena di opere d'arte stivata proprio da una quindicina di aristocratici inglesi, salpata da Livorno, viene intercettata dalla marina francese che era allora in guerra con l'Inghilterra, e in pratica l'intero contenuto viene venduto al re di Spagna, che lo ha destinato all'Accademia Reale di San Fernando. Per quanto riguarda questo enorme, steso lasso di tempo, no, dal Settecento fino ad arrivare alla fantascienza, il disegno è fondamentale, dal disegno che si parte, e adesso dal punto di vista tecnico ovviamente, dalle capacità, dalle modalità tecniche, è chiaro che il cambiamento c'è, ma per quanto riguarda l'aspetto dell'approccio, l'aspetto emotivo, di percorso appunto, quali divergenze, cos'è cambiato nel sentire artistico? Il disegno si è sempre tenuto molto vicino alla fase più creativa e più sorgiva dell'arte, delle arti io direi, anche perché noi consideriamo disegno comunque anche espressioni legate alla composizione musicale, abbiamo degli esempi anche interni a questa mostra, però per dire che è comunque la prima edizione, tanto per intenderci, si intitolava Il nido delle idee, quindi legno come sia un groviglio di segni che qualcosa che è proprio un filo conduttore della mente, la prima palestra, il primo terreno sul quale un artista mette alla prova i propri pensieri. E quindi questa caratteristica sorgiva, originaria, fa sì che tutti i disegni in qualche modo abbiano tra loro un filo conduttore, sia quelli antichi che quelli contemporanei. Possono cambiare anche gli strumenti, anche se in molti casi non cambiano, nel senso che una matita e un foglio di carta è ancora usato oggi. Per dire, anche se poi questo disegno si traduce in un file di computer ci sono ancora dei minimi comuni denominatori che legano la matrice nucleare di questa disciplina e di questa espressione del pensiero umano, ecco. Per cui questo fa sì che concepire una rassegna che va dall'antico al contemporaneo vuol dire concepire e gettare anche un ponte tra l'antico e la contemporaneità, cosa che ad esempio nelle rassegne più vaste delle arti visive in senso generale, accostare un dipinto di Raffaello a un'installazione di Joseph Beuys sono due cose diverse che accostare un disegno di Raffaello e un disegno di Beuys. Siamo arrivati allora alla fine della nostra trasmissione. Chi volesse sapere di più del materiale trattato, se volesse anche riascoltare l'intera trasmissione, i siti sono ilpioniere.org o www.radiocittafugico.it. Ciao a tutti, alla prossima.